notte buia in Bolognina, ma sentivo quel suono e mi piaceva. La stagione sonora del Binario 69 all'insegna della partecipazione e dell'accessibilità. Binario 69, via dei Carracci 69 7D a Bologna. Ingresso riservato ai tesserati AICS. Info sui nostri social. Non c'è due senza tre. Dal 2 al 24 marzo la terza edizione del Festival della Divulgazione, organizzato dal Comune di San Giorgio di Piano e dall'Unione Reno Galliera. Tanti luoghi tra Bologna e la città metropolitana per approfondire temi come giustizia climatica, intelligenza artificiale, femminismo, stili alimentari e filosofia e tanto altro ancora. Divulgatrici e divulgatori di tutta Italia ci raccontano in conferenze, visite guidate e concerti tutto quello che c'è da sapere. Così non potrai più dire: non ce lo dicono. Scopri il programma completo sulla pagina Facebook Piccolo Festival della Divulgazione. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Caricamento di Panta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti. Velocità smodata! Via! E bentornati qui su Panta 80 103.1 in FM, perché ci state ascoltando su Radio Città Fujiko. Eventualmente ci potete anche ascoltare tramite le app di Radio Città Fujiko, sia per Android sia per iOS. Salve a tutti, bentornati qui sulla Panta 80 Time Machine, e anche questo lunedì ce lo facciamo in allegra compagnia reciproca con una puntata speciale, perché è un po' supplenza time. Il buon Panta comunque non vi preoccupate, vi abbraccia calorosamente tutti quanti. Invece la mia lingua italiana già direttamente sta andando a ramengo alle 21:03. Stiamo facendo il record mondiale, signori e signori. Comunque, come state? Noi salutiamo i ragazzi, insomma, i fedelissimi che ci stanno seguendo sia da Borgo Mostri sia anche al di là della Manica, perché ricordiamo Radio Città Fujiko viene ascoltata anche in quel di Manchester. Voi pensate sempre che vi perculi, invece no, è assolutamente vero, ho le prove, assolutamente. Comunque, in questo lunedì 26 febbraio, che si è ricordato di fare un po' l'inverno, visto e considerato che in questo preciso istante sta piovendo un po', va benissimo, anzi, perché comunque era da un bel po' che non si vedeva un po' di pioggia, e io direi di fare un po' come al solito, ovvero sia la playlist un po' schizofrenica, che fa sempre bene, c'è, è pronta a partire, e voi, se volete, qualora lo vogliate, ci potete scrivere qualsiasi cosa. Ditemi cosa state combinando in questo lunedì uggioso. Lo potete fare tramite SMS, WhatsApp o Telegram al 333 1809 494. Eventualmente accettiamo anche piccioni viaggiatori, però insomma è un pochettino più macchinosa quella cosa. Noi iniziamo alla grande con un pezzone dei... guardate, sono talmente fuso oggi, che avevo appena stilato la playlist e già non mi ricordavo il primo pezzo. Sono i Depeche Mode con People Are People. Don't. alla fine Depeche Mode lo sapete meglio di me anche che insomma sono una costante qui di Panta 80. People are people, tra l'altro mi permette un pochettino di ricordare, di rinfrescare la memoria a coloro i quali sono un po' come me, tipo Dory, il pesce di Alla ricerca di Nemo, cioè con la memoria praticamente è inesistente o quantomeno è tipo disegnata con le penne cancellabili. I Depeche Mode saranno a Torino e Milano per il 23, 28 e il 30 marzo. Quindi, signori e signori, tra un mesetto ci ricicciamo dentro qui al bel paese, come si suol dire, i Depeche Mode, che è sempre un bel sentire. Fateci sapere se voi siete tra i fortunati che hanno preso i biglietti, anche perché se non vado errato è tutto sold out, tutte e tre le date. Ma a proposito di sold out, no, a proposito di niente, ma più che altro diciamo a proposito di ricorrenze, quest'anno ricorrono i 40 anni da un esordio, che è quello degli Europe, la band di Joey Tempest e compagnia bella. Sono 40 anni in giro e quest'anno faranno una serie di concerti e anche una serie di celebrazioni con il remixaggio e la messa in vendita di un vinile speciale dei Wings of Tomorrow, che è il primissimo loro album. E quindi niente, è così, quest'anno ci sono un sacco di ricorrenze, un sacco di begli album che compiono 40 anni. Con Panta abbiamo fatto, per l'appunto, qui a Panta 80, una puntata speciale dedicata agli album che compiono 4 decadi, come direbbe la mia professoressa di italiano alle medie. Ma a parte questo, chissà, ci potrebbe essere anche una parte 2 di quella puntata, signore e signori. Ma bando alle ciance, vi ho già annunciato per l'appunto gli Europe e noi ce li andiamo ad ascoltare con Stormwind, che è proprio bella, grezza e feroce, come piace al sottoscritto. I like to sit beside the fire when the light is Il bello degli Europe degli inizi, per quanto mi riguarda, è proprio questo, cioè alla fine a livello proprio di stile base hanno per lo più mantenuto sempre questa cifra stilistica. Però il bello di avere pochi soldi e poco budget a disposizione e tanta voglia di suonare è che sei grezzo e feroce, proprio vai dritto al punto, e se una cosa è buona qualitativamente parlando si sente anche così, soprattutto così. Che ci posso fare? A me piacciono le produzioni, quelle proprio polverose, ecco, chiamiamole così, polverose, così come la polvere della Panta 80 Time Machine mentre fa una derapata così con freno a mano tirato e continuiamo a sfrecciare qui sulle autostrade radiofoniche. Mamma mia, sto dicendo tutte cose proprio desuete, come si suol dire, ma quindi proseguiamo con questa playlist un po' pazza, un po' schizofrenica, che va a destra e a manca, su e giù, dritto e rovescio, qua là, eccetera eccetera. E sono andato a ricicciare fuori una delle band che probabilmente i nostri amici di Ballet di Fendi, che arriveranno subito dopo Pant 80, piaceranno, ovvero sia i Clash con Should I Stay or Should I Go. Ho quasi detto qualcosa di corretto in inglese? Ecco perché piove. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me carelessly coming. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Rientriamo subito qui sulla Pant 80 Time Machine e così con un qualcosa, un argomento, un aneddoto, degli aneddoti randomici, perché oggi è la puntata random. Ecco, se dovete spiegare a qualcuno il concetto di random, randomizzazione, fate questa puntata qua, gli fate ascoltare la puntata di Panto 80 del 26 febbraio 2024. Al di là di questo, nelle ultime settimane, anche per lavoro, soprattutto per lavoro, sono stato in zona fiera, insomma, proprio tra i padiglioni, tra il Nerd Show di Bologna, che è sempre un piacere, insomma, è casa per un nerdaccione come me e come lo è d'altronde il Panta. E ieri c'è stato l'inaugurazione di tutt'altro evento, ovvero sia della fiera dedicata ai vini, allo Slow Wine Festival, che è una bella chicca per chi è amante del vino. Occhio, perché bisogna essere comunque preparati, perché ci sono, non mi ricordo quante cantine provenienti da tutta Italia, ma siamo secondo me sull'ordine dei 300-600 più o meno. Fatto sta che tutte le cantine non le potete assaggiare, non riuscite, non ce la fate. Due, se tentate, insomma, in questa impresa, ricordatevi che il vostro fegato e le vostre capacità di gestione un pochettino dell'alcol hanno comunque dei limiti. Detto questo, comunque, ho riscoperto anche delle cantine del mio territorio, che io sono abruzzese, sono di Teramo per la precisione, e mi ha fatto piacere vederle lì, insomma, anche con una bella fila. E tra l'altro, mi pare, se non vado errato, ma non dovrei errare, chi volesse è ancora disponibile qualche biglietto per domani, se volete andare allo Slow Wine, appunto, in zona fiera. Sono dei begli eventi, così, e mi faceva piacere esternare e condividere con voi, insomma, questa piacevole domenica che ho trascorso. Detto questo, le 21:23, ragazzi, allora, la scaletta prevede una band che a me personalmente piace, ma in effetti mandiamo poco. Rompo gli indugi immediatamente, vi dico Aerosmith, che tra l'altro, se non vado errato, hanno detto pure loro: ragazzi miei, è stato bello, ma noi ci abbiamo una certa, concerti o non ne facciamo praticamente più, o se li facciamo solo per occasioni ultra speciali. E noi ci andiamo ad ascoltare uno dei loro pezzi più sputtanati, sì, più belli, sì, quindi chi se ne frega, Crazy degli Aerosmith, qui su Panto 80. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good. proposito di avere una certa, come vi dicevo, insomma, gli Aerosmith erano impegnati l'anno scorso nel tour di addio, perché hanno avuto il buon cuore, insomma, di dire: oh, la nostra strada l'abbiamo fatta, arrivederci e grazie. Soltanto che Steven Tyler ha avuto dei problemi non esattamente lievissimi alle corde vocali, e quindi hanno dovuto poi, verso novembre, sì, una cosa del genere, interrompere tutto il tour, salvo poi qualche settimana fa dire, insomma, aggiornare sulla situazione di salute del cantante. Il cantante stesso ha detto: sto molto meglio, sono ancora in via di guarigione e mi hanno imposto di parlare comunque il meno possibile, tant'è che la figlia gli urla contro, ma letteralmente, della serie: papà, stai zitto, non devi parlare, perché ti devi riprendere il prima possibile, scriviamoci per messaggi al massimo. Soltanto che lui è un chiacchierone, quindi fa una fatica immane a tacere. 21 e 29 in questo preciso istante, signore e signori, sapete che vi dico? Noi facciamo così: facciamo partire gli spot pubblicitari e poi ci risentiamo con un po' ancora di musica così randomica, che fa sempre bene. Ok? Allora ci rivediamo tra pochissimo. Ciao! Piccolo spazio pubblicità. La musica è di tutti e per tutti. La Scuola Popolare di Musica Ivan Illich è aperta a chi vuole suonare e cantare insieme agli altri, a chi non ha mai preso uno strumento in mano, a chi vuole diventare un musicista, a chi vuole improvvisare, a chi vuole ascoltare musica slegata dai generi, a chi vuole imparare divertendosi. Tutto il resto non importa. Scuola Popolare Ivan Illich, nessuno escluso. Visita il sito www.spmii.it o chiama allo 051 357753. Oh no! Mi sono entrati i ladri in casa! È già la seconda volta! Pensavo che la mia porta blindata fosse sicura. Mi hanno portato via tutto. Ma, signor Rossi, qui ci vuole un professionista serio. Chiami la BM Security di Bertozzi Marco. In tempi rapidissimi le sostituiranno le serrature e aggiorneranno il livello di sicurezza. Così avrà una casa più sicura. BM Security di Bertozzi Marco, fabbri di famiglia a prezzi onesti. 346 708 20 65. Grazie signora Laura, lo chiamo subito. 346 708 20 65. Scopri la magia della stagione teatrale 2023-2024, Tre Teatri per Te, del Comune di San Giovanni in Persiceto. Grandi artisti, grandi spettacoli e grandi storie. Scegli tra il biglietto singolo o le varie formule di abbonamento. Informati allo 051 82 50 22 o manda una mail a biglietteriateatro@comunepersiceto.it. Tre Teatri per Te, che la magia abbia inizio. Giovedì 29 febbraio al Teatro Comunale, Paolo Händel in Niente Panico. Bollicine in Villa, un evento dedicato alle più grandi bollicine d'Italia, Francia e resto d'Europa. Oltre 3.000 bottiglie in degustazione, champagne, cremant, cava, spumanti italiani, ungheresi e austriaci, masterclass, prelibatezze gastronomiche e wine shop. Una due giorni di emozioni, contenuti, scambio di opinioni e nuove idee. Sabato 23 e domenica 24 marzo, dalle 10 alle 20, Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, Venezia. Info su bollicineinvilla.it. Inizia ora la seconda parte di Panta 80. E torniamo, come ben promesso, qui su Panta 80, Radio Città Fujiko 103.1 in FM, oppure se ci state ascoltando, se ci volete ascoltare le prossime volte via internet, c'è www.radiocittafujiko.it. Comunque siamo ancora qui, giro di boa per Panta 80 e anche giro negli archivi sonori di Panta 80, perché ho ricicciato fuori i The B52. Sì, lo so, non si dice così perché è tutto in inglese, ragazzi. Abbiate pietà di un povero 37enne. Comunque, a parte questo, ho ricicciato fuori perché loro sono anche dei, diciamo, uno dei tanti padri putativi della trasmissione. Ce li andiamo a riascoltare direttamente così con Private Hideout. Nel frattempo che andava, io me la stavo godendo un po' questa Private Hideout, perché The B-52 sono una di quelle band, io lo dico sempre, sono una di quelle band che fondamentalmente sono esplose negli anni 80 e poi arrivederci, grazie, chi si è visto, cioè hanno fatto poi qualcosettina all'inizio degli anni 90, in primissima metà, ma poi spariti nel nulla. Quindi sapete che mi è venuta questa fissa, questo tarlo. Nel frattempo io mando, ci ascoltiamo tutti quanti insieme un'altra canzone che tra l'altro ve lo dico subito, sono i Queen con Black Chat, Backchat, scusatemi, ecco per l'appunto. E io intanto mi vado a vedere un po' che fine hanno fatto i B-52, perché ora ho proprio un tarlo nella testa, non me lo riesco a levare proprio. Yeah, yeah. Tra l'altro, Backchat è una delle mie riscoperte recenti per quanto riguarda i Queen, e mi dispiace, nel senso, mi dispiace non averla apprezzata già in precedenza, già un po' di anni fa, perché è un pezzo che piace tantissimo. Tantissimo. Comunque, vi avevo detto che mi si era insinuato un tarlo in testa della serie I The B52. Che fine hanno fatto? Questi signori qua nel 2008 hanno realizzato l'ultimo album in studio, Funplex, poi sono andati in tour per 2, 3, 4 anni per promuovere l'album, e poi hanno continuato ad andare in giro per concerti, a fare concerti su concerti su concerti, salvo poi nel 2022, se non vado errato, esatto, esibirsi per l'ultima volta, e poi, anzi no, scusatemi, il 10 gennaio 2023, quindi un anno fa, poco più di un anno fa, hanno realizzato l'ultimo concerto, salvo poi hanno ufficialmente smesso di andare in tour, però hanno poi accettato di fare una residency, come si dice, a Las Vegas, una serie di concerti solo e unicamente lì a Las Vegas, nello stesso posto, e l'hanno fatto per un po' di tempo l'anno scorso, nel 2023, e ora ricominceranno una serie di concerti sempre a Las Vegas ad aprile 2024. Quindi, se siete lì nei paraggi per qualsiasi tipologia di accadimento, non so, dovete andare a comprare la frutta e siete casualmente lì a Las Vegas, tra un mandarino, un'arancia e un ananas, magari potete anche andare a vedere i The B52. Invece, per quanto riguarda i Queen, sappiamo tutti che è in lavorazione il seguito della biopic Bohemian Rhapsody. Ancora ci sono i lavori in corso, dovrebbe uscire questo seguito, se non vado errato, nel corso del 2025. Staremo a vedere. A me Bohemian Rhapsody, con tutte le inesattezze del caso, bla bla bla, c'è qualcuno che l'ha demolito, ma non sono tra quelli, a me è piaciuto, devo dirlo, faccio questa esternazione pubblica, in pubblico. Ma sono le 21:45, signore e signori, la Panta 80 Time Machine sta vedendo sempre più vicino il garage verso il cui si sta dirigendo, per l'appunto, per riposarsi per una settimanella. Ma prima, facciamo un pit stop, andiamo da zia Patty, che non è Patty e Selma dei Simpson ovviamente, ma stiamo parlando di Patty Smith con People Have the Power, in una versione live direttamente dal 2000, signore e signori, che uno pensa il 2000, vabbè, una decina d'anni fa, no signori, 24 anni fa. Dreaming, well, of an aspect Smith, People of the Power 2000, durante la cerimonia della Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame del 2000, dove non c'era lei, cioè lei era come ospite, ma nel 2000 così, nozioni da che potete un po' smerciare tra i vostri amici per, insomma, farvi un po' i grossi di quelli che sanno di musica. Nel 2000 la Rock and Roll Hall of Fame aveva nomi come Eric Clapton, King Curtis, Clive Davis, Earth, Wind and Fire, Billie Holiday, santi numi, soltanto nel 2000, ok, scusatemi, James Taylor, e insomma tanta bella gente. Invece Zia Patti è entrata ufficialmente nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2007 insieme ai Van Halen e i REM, tra l'altro. Quindi queste nozioni che zio Andrea vi ha tirato in ballo così a destra e manca, non vi preoccupate, riciclatele pure e insomma fate vedere che conoscete un po' di storia della musica. Comunque alle 21.52 io direi che è giunto il momento dei saluti. Io vi ringrazio anche da parte di Panta per essere stati qui con noi, così come fate insomma ogni lunedì. Vi lasciamo nelle sapienti mani dei nostri amici Balle di Fendi, che già ho visto, insomma, hanno preparato e stanno preparando una puntata bella ciccia, bella cicciuosa. Sono le 21.52, io vi ringrazio per l'appunto per essere stati qui con noi. Speriamo che questa playlist un pochettino schizofrenica sia stata di vostro gradimento e io vi lascio, insomma, vi saluto dal punto di vista musicale con un pezzo della Madonna. Eh sì, lo dico direttamente perché è un'edizione 30° anniversario, diciamo, è stato fatto un mashup delle due versioni di questa canzone, che ha la voce Lemmy, perché l'ha scritta lui, sì, Lemmy dei Motorhead, con la voce del suo interprete più famoso, ovvero sia Zio Ozzy. Questa, quindi avete capito bene, è Hellraiser. Ragazzi e ragazzi, noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao! Hellraiser, rock you back in your seat. Hellraiser.